vulcano la mia mente. Già comincia a diventarsi. Ho l'idea di quel metallo, un vulcano la mia mente. Mi comincia a diventar. Sì, sì, ho l'idea di quel metallo, un vulcano la mia mente. Mi comincia a diventar. Acqua di vento, di vento. Per trovarti dove sta. la bottega e non si sbaglia, guardi bene, eccola là. Numero 15, a mano manca, 4 gradini, facciata bianca, 5 parrucche nella vetrina, sopra un cartello, pomata fina, mostra in azzurro, alla moderna, per insegna, una lanterna, la senza fallo, mi troverà. 5 parrucche nella vetrina, sopra il cartello, pomata fina, mostra in azzurro, alla moderna, per insegna, una lanterna, la senza fallo, la senza fallo, la senza fallo, mi troverà. 5 parrucche, una lanterna, la senza fallo mi troverà. Ho ben capito. Or vada presto. Tu guarda bene. Io penso al resto. Di te mi fido. E cola l'attendo. Mio caro Figaro. Intendo, intendo. Porterò meco. La borsa piena. Sì, quel che vuoi. Arresto poi. Ma non si dubiti che me ne andrà. Sento d'ardore in salito questa alma accende l'oro già viene e giù mi fa delle monete il suo già sento delle monete il suo già sento già viene l'oro già viene l'argento già viene l'oro già viene l'oro ecco ecco già viene l'oro già viene l'argento ecco ecco in tasca scende ecco qua ecco propizio d'ardore in salito questa alma accende Sorry, e di me stesso maggior mi fa già bene l'oro, già bene l'oro